questi periodi così complicati, Eleonora Duse, parlando di resilienza, è un monumento alla resilienza, perché immaginatevi che con un polmone solo è riuscita dopo la guerra, cioè è diventata una diva internazionale, andava a recitare perfino a New York, in America del Sud. Non solo, ma pensate che lei, che ha avuto il primo figlio fuori dal matrimonio, dove le donne venivano frustate, gli veniva portato via il bambino negli orfanotrofi, lei l'ha messo a balia, in una balia segreta, cioè lei è stata una battistrada per l'emancipazione femminile inimmaginabile. Lei è fatto anche la regista di se stessa, la produttrice della compagnia che dirigeva, non solo, ma lei ha fatto conoscere in tutto il mondo, in tutta Europa, autori come Ibsen, li ha fatti conoscere lei. E quello, per esempio, il suo sodalizio artistico di riportare in Italia un teatro di poesia che ha avuto con D'Annunzio, non è D'Annunzio che ha fatto fare carriera a lei, ma viceversa, lui era più giovane, lei gli pagava ovviamente un sacco di soldi per questo teatro che faceva, lui la tradiva, stava alla Copponcina a Firenze, che era una villa enorme con camerieri, cani e cavalli, e comunque invece è lei che l'ha fatto conoscere al mondo, cioè una donna veramente di una forza straordinaria, per cui ne parlo con molto piacere, ci ha fatto da battistrada su tante conquiste. In questo spettacolo La musica dell'anima sarai accompagnata da Marco Lastra al pianoforte e viaggerai tra la recitazione e la musica, restituendoci sì, tra l'altro, un po' di quella che era anche la cultura musicale della Duse, che farebbe un'importante relazione sentimentale e lavorativa con Arringo Boito, che per lei adattò Antonio e Cleopatra. Ci racconti un po' di questa vicenda? Sì, esatto, Arrigo Boito è stato uno dei suoi amanti, ma lei ha sempre amato la musica, Rossini quando era ragazza, poi durante il periodo d'Annunziano Wagner, ma poi lei si è appassionata a tutta la musica contemporanea, nonché anche alle arti come il cinema che stavano nascendo, per cui quando ancora veramente non passava, insomma, questa anche musica classica contemporanea, per non parlare poi di Gershwin, insomma di tante cose. Infatti lei diceva: il teatro non è stato il mio destino, il teatro è stato la mia vita, il mio destino era il futuro. E lei diceva: sono nata troppo presto, perché lei vedeva anche tutta questa rivoluzione delle arti, compresa quella della musica. Infatti il repertorio che farà Marco Scolastra, bravissimo e sensibilissimo pianista, va appunto da Rossini e poi Chopin, che lei adorava, cioè aveva addirittura Beethoven, aveva un busto di gesso che si portava nelle camere d'albergo di Beethoven, fino ad arrivare proprio a dei pezzi di musica estremamente classica contemporanea del Novecento. Quindi c'è un arco musicale molto interessante e molto importante. Lei non viveva senza musica, ma la cosa che lei dice, ascoltare musica era andarla a sentire dal vivo, non avevano registratori. Non c'era lo streaming. No, neanche internet. E però lei trovava sempre il modo, anzi, siccome era nata in una famiglia di poverissimi teatranti e la lasciavano spesso in camere d'albergo gelate, lei si affacciava per ascoltare, perché magari in qualche casa la sera suonavano un pianoforte, no? Un violino, qualcuno, e lei questo le dava conforto. La musica è stata veramente un accompagnamento alla sua vita. Quindi innovatrice anche nel linguaggio, nel modo di fare teatro, per smarcarsi per quanto sia possibile dal teatro tipico dell'Ottocento e anche guardare avanti. Sviluppa una fisicità scenica molto particolare, studiata ma anche istintiva, gesticolare, aggrapparsi alle tende del sipario, insomma arriva a creare un pathos con degli strumenti decisamente poco ortodossi per l'epoca. Lei andava contro i tromboni e la recitazione, certo, diciamo tra virgolette teatrale, e lei anzi sussurrava, aveva già una recitazione, se si può dire, cinematografica, e lei cercava di essere vera. Infatti non la volevano all'inizio Torino, lei aveva una compagnia, un impresario che le ha detto che se lei continuava a sussurrare la buttava fuori, voleva che lei urlasse basse, eccetera, che impostasse la voce, e invece poi vince il suo modo di fare teatro estremamente contemporaneo. Infatti non a caso lei poi si innamorò artisticamente di Ibsen, no? Cioè, immaginatevi, no? Ma anche quando lei arrivò a New York, che andò sul set, perfino Chaplin Strasberg, quando seppe che lei era agli Studios, andò lì, si mise in ginocchio e dice: noi le dobbiamo tutta la recitazione nuova contemporanea, la dobbiamo a lei. C'è proprio una frase di Strasberg che lei diceva: tu devi sentire le cose. Dice: io lottavo con attori che non si prendevano neanche il testo intero, ma solo le pagine che dovevano recitare. Dice: ma psicologicamente come lo capisci, come le devi dire quelle battute, se non sai come il personaggio si muove all'interno della storia, no? Quindi lei era estremamente moderna come recitazione, anche su quello. Un personaggio complicato, intricante, che ha, come dici anche tu da questa breve intervista, una vita che si fa romanzo, no? Un'opera d'arte affascinante, ha frequentazioni di valore, collaborazioni artistiche, tutto vissuto a mille, con un fondo di tragedia dell'anima. Una donna che sicuramente lasciava un segno profondo. Lo stesso D'Annunzio, che le sopravvisse 14 anni, li passò a struggersi nel ricordo di Eleonora. E quando Eleonora nel 1924 morì, disse: è morta quella che non mi meritai. Ed è vero, io studiando la vita, sì, ripeto, lui si è fatto mantenere in agi, ricchezze, tradendola dalla mattina alla sera, mettendole le corna, e lei invece, e tutti le dicevano, Cafiè, la sua amica Leramo, le dicevano: ma guarda, non ti merita, non ha... e lei diceva: ma non capiscono, dice: io so benissimo quello che lui mi fa. Ma noi abbiamo una missione, che è quella di riportare il teatro in versi in Italia, no? E poi non capiscono che per me la cosa importante è avere 40 anni come li ho e amo. Poi c'è arrivato il giorno in cui lei si è sdegnata e lì non l'ha più voluto, ma non per fatti personali, perché la tradì artisticamente, perché lei gli commissionò dei testi nuovi e lui scrisse La meravigliosa figlia di Orio, però per una protagonista che aveva 20 anni. Lei in realtà ne aveva pochi più di 40, oggi fare una ventenne a 40 anni in teatro è normale, cioè. Però i 40 anni di allora, senza gli aiutini che oggi abbiamo, erano più, per cui avere 40 anni e amo è come se io, che ne ho 65, dicessi a qualcuno: vabbè, c'ho un amante di 18 anni più giovane, ho 65 anni e amo, che ve ne frega, a me mi va bene così, no? E sappiamo bene le debolezze di D'Annunzio, tra l'altro. Sì, appunto, appunto, sì. E quindi lei lo lasciò perché lui la tradì artisticamente, che ormai scriveva le cose, lei non aveva più l'età per poterle interpretare, no? E quindi lei su questo finalmente si liberò di lui.